fortuna che Ukraine, Offline, African Federation of Labor and Allied Industries, hanno sempre venuto come sede della quinta edizione da Città del Capo, Casablanca, Tunisi e Casablanca, per garantire un adeguato recupero tra i paesi e anche per la centralità del mercato nazionale in Africa. L'anticipazione che si apriva appunto nel momento in cui stiamo passando per essere fratelli del futuro, che l'hanno l'occasione di proporre la loro produzione a riconoscere la tecnologia europea, in un ruolo unico a livello internazionale, anche per le caratteristiche peculiari di questo continente. Tutte le aziende che operano all'interno della filiera produttiva dell'orecchio e della pelle, ma anche il calciatore, del materiale e consigliere, prodotti chimici, concerie, componenti e assessori per calciatore e serie di depurazione, con una prevalenza nel territorio legata all'industria delle concerie, macchine e prodotti chimici. Per favorire una maggiore partecipazione di aziende, che stavano quindi di consentire un buon modalità di partecipazione, che danno al diritto e al mio insieme anche la possibilità di partecipare alla fiera e verificare un andamento del mercato locale, aumentando ai massimi l'impegno e la mia stessa qualità. L'iniziativa 20 aziende italiane, di cui 13 con 6 autonomi e 7 non utilizzanti all'interno di altre spese, in un spazio estimativo e complessivo di 150 metri quadrati.

riprenderà il colloquio con l'Iran, il centro di programma nucleare, il prossimo 15 maggio a Vienna. Lo ha annunciato il portavoce della Agenzia Argentina. Si tratta del decimo round di colloqui dal 2011. Sono le 20:20 e la Italia sta aspettando il notiziario. Il capo della Commissione di Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, Alaeddin Borisoglu, ha deciso di Israele che sullo Stato ebraico imporrà di nuovo in Siria e si scatenerà una guerra a livello regionale. Non agirà di nuovo nella regione, ha promesso di Israele, come riferisce l'agenzia Siria Fatale una settimana fa. Ma ha aggiunto che questa la guerra non sarà iniziata alla fine. Almeno 120 persone sono rimaste uccise nelle ultime 48 ore in Iran. In una nuova ondata di violenza, sono uscite prevalentemente la città di Fatah, dove ieri l'esercito ha represso brutalmente una manifestazione di oppositori sunniti. Ne riferiscono fonti locali. Sarebbero 187 i feriti. Molte delle persone si sono riuscite negli scontri con la polizia. Ancora una giornata di violenza in Roma. Le forze di sicurezza europee hanno ucciso 3 ore armate che hanno tentato di attaccare un checkpoint nei pressi di Mosul, distante fuori a 360 km a nord-ovest di Bagdad. Il centro di Mosulenda ha colpito la fattura della polizia poco a nord della capitale, uccidendo un agente e un assassino. Il numero delle vittime di entrambi gli episodi è stato confermato da fonti ospedaliere, rimaste anonime. Il tribunale criminale di Algeri ha condannato la sua capitale Mokhtar Belmokhtar, leader salafita autore del sanguinoso assalto al campo petrolifero di Inna, condotto il 15 gennaio scorso. La condanna, secondo quanto scritto la stampa locale, è stata messa in continuità, così come tra l'altro 5 presunti luogotenenti del Nilo, recentemente dato per morte in un raid aereo in Mali, anche se la Francia non ha mai confermato la notizia. Almeno 7 persone sono rimaste uccise, tra cui alcuni bambini, in un violento terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito oggi la provincia siana di Nangarhar. Lo ha comunicato il portavoce di Sanquale, Nadia Al-Khazari, precisando che le bianche si contano tra l'altra 85 pianeta e nessuna di abitazioni di stesse. La scossa è stata definita in questo modo. Almeno 2 poliziotti sono stati feriti da una esplosione di incendio, dopo luogo della provincia sud-occidentale pakistana del Baluchistan, dove si è riferito per la cura. È la terza esplosione degli ultimi 24 ore nella città dove sono assunti i territori di Tuccia e in Italia di Tuccia. Le due ore sono la sicurezza di una stazione di polizia di Stati Bauri. Oggi 13 persone sono state ferite da uno scoppio davanti all'ospedale e ieri sera 4 attacchi esplosivi hanno fatto 3 morti e altri 40 feriti. Una bomba è esplosa nel distretto e la prima che si batte nella testa, capoluogo della provincia del Baluchistan, Pakistan sud occidentale. Lo riferiscono i media locali, spiegando che un'esplosione di bassa intensità ha fatto almeno 6 persone, tra i quali diversi bambini. Bordino era stato piazzato su una motocicletta in posto di fronte alla clinica. Ieri questo è stato teatro di altre 4 esplosioni che hanno fatto almeno 6 vittime e una trentina di feriti. Le autorità della Somalia hanno lanciato oggi un nuovo vaccino contenente in grado di proteggere i bambini da insidiose malattie e salvare migliaia di umani feriti. Il contenente spiega molto in una nota con nome vaccini contro il disferite portano il percorso Hepatite B e HIV, che mettono in influenza e per batterie che provocano nodi tutto limite e altre gravi infezioni. Queste malattie molto vicine in questa parte del corno d'Africa. la Somalia è tra i paesi con i peggiori indicatori sanitari al mondo. Grazie per essere stati con noi, avete consultato i miei. Thank you. Ecco. Lei da Antonello Bocchini. Thank you. posto, l'importanza della geotensione tra i paesi del Consiglio dell'Unione sarà una base, almeno strettamente, dell'Europa dell'Unione, che questa potenza è messa in atto per la regola del Consiglio dell'Unione, per la fine della spinta, per la fine della nostra, la situazione è che sta muovendo uno dei progetti di sviluppo nell'ambito della difensiva, dell'insegnamento, della salute e dell'università. Certo, i paesi della Cina non devono intercettare la loro cooperazione attraverso diversi progetti per l'insieme. Ascoltatori, grazie per aver creato un film e ricerche. Abbiamo presentato il mio centro di vita, scrittore di business e mercato. Cairo, vi invitiamo a seguire una conversazione speciale sul film di origine storica, a cura di Renato Massimo. La finestra del film, questa meravigliosa contrada situata ai confini dell'Africa e dell'Asia, era dall'alba della storia uno dei più importanti punti di passaggio delle migrazioni umane. La sua soluzione strategica e la sua ubicazione all'interno delle civiltà dei tre continenti del mondo antico, il film ha giocato dei ruoli storici di primaria importanza e da lì sono fatto un evento che esiste e che non è altro. Il film è considerato come una strada non solo di conquista militare dell'Egitto e di tutte le invasioni che la borsa gli avano, ma anche di scambio commerciale. Non dimentichiamo di segnalare che il Corsumeri è in primo luogo una regione piena di storia religiosa. Nell'antichità, il Pontigiano Re era anche il secondo, condusse la sua celebre spedizione militare attraverso i fiumi per combattere i rischi di fiumi. Per questo, il fiumi si è strada occupata nel deserto per dividersi in Palestina per recuperare il fiumi. Thank you.